giustizia, date quella spada. Pietà, pietà, la sorregge mi arrepino. Tentaste di sposarvi e avete moglie. Per i bigamio duca c'è la forca. Do perdonate un padre di famiglia. E a lui dareste, o pantalon, la figlia. Imbecille, legge me lo tocco, ma se non chiesti a lottare a cento, ma se non chiesti a lottare a cento, farmi piacere. Parla chi dunque? A me. Fra 9 mesi un bel pantalone.